2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 16 maggio 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024 è radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sistema podcast per essere scaricata gratuitamente. Trovate tutte le informazioni su www.radio24.it. E come vi ricordo, ogni settimana è possibile abbonarsi gratuitamente al nostro servizio podcast. Questa è una di quelle settimane in cui ci sono molte notizie difficili da condensare in un'ora. Difficile anche dire qual è la più importante, ma sicuramente fa parlare molto l'approvazione definitiva in Francia di una legge che, a partire dal prossimo autunno, prevede la sospensione del collegamento ad internet per chi scarica illegalmente contenuti protetti dal diritto d'autore, prevalentemente naturalmente sui sistemi peer-to-peer. Di questo parleremo più tardi a 2024. Un'altra notizia importante riguarda la mega multa da 1 miliardo di euro che l'antitrust europeo ha dato alla Intel. Il più grande produttore di processori al mondo è accusato dall'autorità europea di abuso di posizione dominante, in gran parte ai danni della rivale AMD. L'inchiesta è durata, pensate, 10 anni. L'Intel è accusata di avere fatto sconti piuttosto elevati ai produttori di computer che avessero deciso di non immettere sul mercato PC con processore AMD e addirittura di avere pagato la società Media Market, quella della catena Media World, affinché non tenesse a scaffale alcun prodotto targato AMD. Naturalmente Intel si difende preannunciando ricorso e dicendo che le accuse sono false, ma in realtà basta parlare con molti operatori del settore per capire che Intel ha sempre fatto pesare la propria forza sul mercato. Fino a pochi giorni fa non c'erano le prove, ora le prove le ha presentate l'antitrust europeo. Tra poco ci occuperemo anche di commercio elettronico italiano. Nel settore c'è una novità lanciata da uno dei più grandi protagonisti dell'e-commerce al mondo. Ne abbiamo parlato con Diego Piacentini, che è vicepresidente di Amazon International. Quello che abbiamo fatto è abbiamo aperto la possibilità di vendere prodotti non solamente di libri, musica e DVD da tutti i nostri 3 siti europei, quindi da Inghilterra, Germania e Francia. Adesso c'è la possibilità di acquistare per il consumatore italiano prodotti che fino a poco tempo fa erano impensabili anche come tipologia. Quindi a questo punto si può comprare in Inghilterra una videocamera digitale piuttosto che l'ultimo paio di scarpe da corsa, piuttosto che un gioiello, o dalla Germania un orologio, o dalla Francia un frullatore. Qual è la differenza tra questa situazione e un eventuale possibile sito italiano? Ma quello che manca in questo momento è la lingua. Se uno non parla inglese, francese, tedesco, potrebbe avere qualche difficoltà. È anche vero che adesso, con tutte le tecnologie disponibili su internet, si può tradurre in mezzo secondo una pagina di Amazon e capire esattamente quello che si acquista. Si possono comprare anche file musicali? No, in questo momento lo store l'MP3 è solamente limitato ai 2 paesi in cui ce l'abbiamo, Germania e Gran Bretagna, non per nostra volontà, per volontà delle case discografiche. Voi non siete solo un negozio, quindi il rapporto non esiste solo tra voi e i consumatori, voi siete anche un marketplace o comunque un punto di concentramento di altri rivenditori. Ecco, possiamo spiegare la differenza tra il vostro negozio e gli altri negozi? Quello che Amazon offre con la quantità di traffico che ha sul proprio sito è la possibilità, come appena detto, di acquistare sia prodotti che Amazon vende direttamente che prodotti offerti da altri rivenditori, altri seller che usano la nostra piattaforma. In questo modo la selezione di prodotti che vendiamo è molto più elevata di quella che noi avremmo potuto vendere direttamente, oppure anche la possibilità di comprare addirittura prodotti usati, libri usati, dischi usati, quindi costano anche molto di meno. Il fenomeno significativo è che sui nostri 3 siti di Inghilterra, Germania e Gran Bretagna, Germania e Francia esistono anche molti seller italiani che vendono localmente i loro prodotti, ed è un fenomeno che sta avendo molto successo. Quali sono i problemi che voi vedete nel nostro paese per quanto riguarda il commercio elettronico in generale? Ma di problemi non ne vediamo, perché comunque noi siamo in paesi come la Germania e soprattutto anche la Francia, che è molto simile alle dinamiche d'acquisto online online dell'Italia. Se si tratta semplicemente di una penetrazione che sta crescendo un po' più lentamente, ma è proprio una questione di tempi. Per il resto il comportamento del consumatore italiano online è simile a quello di altri paesi europei, semplicemente ci sta mettendo un po' più di tempo. Ecco, invece, guardando quello che succede nel mondo, quindi dagli Stati Uniti alla Cina e al Giappone, quali sono i mercati più interessanti e quali sono le differenze fondamentali? Quello che si sta verificando a livello mondiale, o quantomeno dei paesi in cui noi ci troviamo, che sono le principali economie mondiali, è che il consumatore sta avendo sempre più fiducia nell'acquisto online, quindi sta diventando sempre più un'abitudine quotidiana. Prima era un'occasione d'acquisto, era un acquisto occasionale, adesso diventa più un acquisto abitudinale. Le differenze effettivamente online, è sorprendente, sono poche. La maggior parte delle differenze sono concentrate nel modo in cui i consumatori pagano. Ad esempio negli Stati Uniti o in Gran Bretagna pagano quasi tutti con la carta di credito, in Germania no, usano altri metodi di pagamento, o anche in Giappone usano altri metodi di pagamento. Un'altra differenza, questa soprattutto per il Giappone, è che una grossissima fetta delle nostre vendite in Giappone è per consumatori che si collegano col telefonino, cosa che non è ancora una fetta importante in Europa e negli Stati Uniti. Cresce, ma in Giappone è una porzione veramente molto importante. Il terzo è la logistica, però al di fuori di queste tre macro aree i comportamenti dei consumatori sono identici. Questa era la voce di Diego Piacentini, che è vicepresidente di Amazon. Di Amazon si parla molto in questi giorni anche alla Fiera del Libro di Torino, perché sta avendo molto successo negli Stati Uniti il Kindle, il lettore di libri digitali e quotidiani online lanciato appunto da Amazon. Di questo ci siamo occupati nella puntata del 28 marzo, quindi vi consiglio di riascoltarla online sul nostro sito internet www.radio24.it. Naturalmente nelle pagine di 2024. Altre notizie della settimana, tra poco parleremo più ampiamente del commercio elettronico, ma adesso andiamo brevemente negli Stati Uniti. Secondo un esperto di sicurezza americano, la Cina ha installato negli oltre 10 milioni di computer del governo e della difesa un nuovo e sofisticato software chiamato Kilin, che rende inefficaci le intrusioni dell'intelligence americana. Sempre secondo questo esperto, la Cina avrebbe anche sviluppato, pensate addirittura, un microprocessore più sicuro contro gli attacchi degli hacker rispetto a quelli utilizzati dagli Stati Uniti. Alcuni ascoltatori ricorderanno che esiste una tecnologia di cui abbiamo parlato qualche mese fa, chiamata Wireless HD, che viene utilizzata in ambito domestico per distribuire contenuti in alta definizione, per collegare anche strumenti, è pensata quindi per applicazioni video prevalentemente. Da pochi giorni esiste un'alleanza mondiale, la Wireless Gigabit Alliance, che vorrebbe lanciare nei prossimi anni un nuovo standard per le comunicazioni senza fili ad alta capacità, e stiamo parlando, pensate, di gigabits e quindi anche di alta definizione, ma non solo. Se oggi, quando parliamo di internet, parliamo in ambito domestico di megabits, beh, qua parliamo di gigabits addirittura, quindi mille volte di più. Alcuni dati ci aggiornano sulla diffusione di internet in Italia. Due ricerche presentate in settimana ci dicono che quasi il 60% della popolazione usa internet, o meglio, ha un accesso ad internet. Quindi in mezzo a questo 60% ci sono anche le famiglie, e in 4 persone tutti dicono sì, noi abbiamo un collegamento ad internet. Parliamo quindi di un potenziale di circa 35 milioni di persone, ma il problema è che poi nella realtà, e anche per quanto riguarda la frequenza con cui si usa internet, i dati sono molto più bassi, tanto che AudiWeb ci dice che nel mese di marzo sono stati poco più di 20 milioni gli utenti attivi, cioè quelli che si sono collegati alla rete almeno una volta al mese. Ed ora parliamo di commercio elettronico. I numeri ci dicono in questo caso che è un canale, questo di vendita, che sta crescendo molto bene nonostante il rallentamento economico. Ne abbiamo parlato con Roberto Liscia, che è il presidente di Netcom, il consorzio del commercio elettronico italiano. Il 2008 ha visto una crescita del commercio elettronico rispetto al 2007 del 18%, quindi malgrado la crisi la crescita c'è stata, sia in termini di volumi che in termini di fatturato che in termini di numeri di prodotto transatto. C'è stata una crescita significativa anche dell'export, per la prima volta dopo vari anni è cresciuto di un punto percentuale la vendita di prodotti italiani all'estero, il che sta a significare che le imprese stanno di nuovo capendo come questo canale può essere un canale per migliorare la competitività delle imprese sui mercati internazionali. Un dato il primo trimestre del 2009 rispetto al primo trimestre del 2008, malgrado la congiuntura economica negativa, ha visto una crescita del 38% in Italia della vendita di prodotti di abbigliamento e di accessori, il che sta a significare che, malgrado la crisi delle vendite nel retail, il commercio elettronico sta continuando a dimostrare la sua vitalità. Se guardiamo al comparto, alle vendite complessive nel suo complesso del primo trimestre, le vendite del primo trimestre 2008 sono uguali a quella del primo trimestre 2009. Questo semplicemente per il fatto che le vendite di biglietteria aerea sono diminuite di prezzo, anche se sono aumentate di numero, e questo naturalmente ha controbilanciato la forte crescita della vendita di prodotti di abbigliamento, accessori, ma anche di libri, CD, DVD e di informatica. Il turismo è ancora ai primi posti, qual è la classifica e quindi quali sono anche le nuove tipologie di prodotti e servizi che vengono vendute? L'Italia ha una arretratezza rispetto agli altri paesi, perché il 50% di ciò che è venduto online è ancora rappresentato da turismo, da assicurazioni e da altri servizi. Questo per il fatto che i produttori e la grande distribuzione erano in Italia, rispetto a tutti gli altri paesi europei, di fatto assenti da questo canale. Quest'anno per la prima volta c'è una diminuzione delle vendite del turismo per le ragioni che dicevo poc'anzi, ma c'è un aumento della vendita dei prodotti e anche una presenza più significativa della grande distribuzione. Non dimentichiamo che in tutti i paesi europei tutta la grande distribuzione è presente con offerta di e-commerce e in Italia neanche un terzo della grande distribuzione è presente con le vendite online. E anche i produttori, cioè quelli che offrono prodotti in genere, sono assenti. E qui c'è una ragione molto importante che vale la pena di sottolineare. Perché i produttori italiani sono assenti? Perché finora hanno avuto paura di disturbare il manovratore. Chi è il manovratore? È la distribuzione fisica. Adesso che c'è una crisi congiunturale che ha fatto capire come la piccola distribuzione e la distribuzione fisica cominciano ad avere delle criticità, anche i produttori nazionali e la grande distribuzione stanno scoprendo un po' tardivamente questo canale. Stiamo parlando di commercio elettronico 2024, ne stiamo parlando con Roberto Liscia, che è il presidente di Netcom, il consorzio del commercio elettronico italiano. Questa settimana c'è stato un evento organizzato da Netcom con tutti i principali protagonisti del settore. Negli ultimi anni spesso ci siamo detti che il limitato uso della carta di credito, la scarsa diffusione di internet erano alcuni dei vincoli che bloccavano e rallentavano la crescita del settore in Italia. Qual è la situazione ad oggi, Liscia? La carta di credito è aumentata moltissimo come utilizzo, siamo ormai al 60%. È aumentato moltissimo l'utilizzo delle carte prepagate. L'Italia, da questo punto di vista, è un paese molto dinamico, come si è inventato il prepagato nella telefonia mobile, che è stata una scoperta italiana, così ha fatto sviluppare questo concetto della carta prepagata che ha avuto un grande successo e che ha tranquillizzato l'utente che al massimo pensava di perdere solo quello che c'era caricato sulla carta, anche se sappiamo dai dati e dalle nostre ricerche che la frode online è vicina al 2 per mille. È inesistente. Quindi in realtà è più un problema di percezione che un problema reale, ma l'utilizzo delle carte sta aumentando. Un elemento frenante all'utilizzo del commercio elettronico di tipo infrastrutturale invece in Italia c'è ed è molto significativo. È dimostrato in tutti i paesi europei che c'è una correlazione stretta tra l'uso della banda larga nelle case e nelle famiglie e l'accesso a internet per l'acquisto. L'Italia, da questo punto di vista, è il paese più arretrato. Solo il 31% delle famiglie ha l'accesso a banda larga, contro la media del 52% in Europa, il che sta a significare che l'Italia, a causa dello scarso utilizzo della banda larga da parte delle famiglie, c'è anche una scarso utilizzo di questo canale, perché è evidente, più c'è banda larga, più c'è facilità di interazione con il sito web e con la possibilità di portare a termine in maniera friendly un processo di acquisto. Se guardiamo la situazione agli altri paesi europei, senza andare troppo lontano, Le differenze sono solo in termini numerici, cioè si compra di più, c'è più fedeltà magari al negozio online, o ci sono altre differenze interessanti? No, le differenze sono molte. Negli altri paesi c'è la banda larga, che è sicuramente un elemento abilitante, c'è sicuramente una maggiore abitudine dell'acquisto a distanza, tutte le tecniche di direct marketing, direct mail, vendite per corrispondenza negli altri paesi si sono sviluppate moltissimo, la logistica per tradizione è sempre stata molto più efficiente negli altri paesi europei che in Italia, l'uso della carta di credito è molto più diffuso negli altri paesi che in Italia, quindi le differenze sono molte, queste differenze hanno portato i produttori e i distributori a realizzare un'offerta molto qualificata, nel senso che sia in Francia, in Germania e in Inghilterra gran parte delle vendite online, a differenza dell'Italia, non sono il turismo, le assicurazioni e i servizi, ma sono i prodotti, i beni di consumo, i beni alimentari e i beni di consumo durevole. L'Italia da questo punto di vista è arretrato su tutti gli elementi della catena del valore, dall'accesso a internet all'offerta. Questo è un po' un cane, o meglio un gatto che si morde la coda. Se non c'è offerta non c'è domanda, se non c'è domanda non c'è offerta, ma credo che questo elemento congiunturale che ha messo in crisi i paradigmi tradizionali della distribuzione sta facendo riflettere sul come rinnovare la propria filiera sia in chiave distributiva che in chiave d'offerta, e quindi un cambiamento quest'anno lo stiamo avvertendo in maniera significativa, tant'è che sta aumentando non soltanto, come dicevo, la vendita di prodotti in Italia, ma anche la vendita di prodotti e di prodotti di abbigliamento e di Made in Italy sui mercati internazionali. A proposito di e-commerce, PayPal e Banca Sella hanno annunciato questa settimana un accordo di collaborazione che amplia le possibilità di pagamento online per molti consumatori italiani. Ci spiega il dettaglio Elena Antoniazza di PayPal Italia. Da quando questo accordo sarà operativo, quindi fra qualche giorno, le persone che andranno su un sito dove fino ad oggi PayPal non era offerto come sistema di pagamento, lo troveranno invece inserito nel sistema di pagamento Banca Sella. Quindi sarà possibile usare il proprio sistema di pagamento preferito, speriamo PayPal, da quelli che lo utilizzano già, attraverso però l'interfaccia di Banca Sella, come un'ulteriore opzione di pagamento offerta da Banca Sella. PayPal è un sistema di pagamento, però è un po' diverso dai sistemi di pagamento classici. Qual è la differenza fondamentale? La differenza più importante, che è quella che poi ha fatto il nostro successo anche in Italia, è quella che PayPal permette di pagare senza condividere i propri dati finanziari, quindi senza dare il proprio numero di carta di credito o carta prepagata e senza dare i propri dati anche personali, quindi il proprio nome e cognome. È una sorta di portafoglio al quale si attaccano i propri strumenti finanziari, carte, ma da poco anche il conto corrente bancario, si carica il borsellino e poi si utilizza per fare pagamenti senza dover comunicare i propri dati personali o finanziari. E questa è una notizia rilevante e importante perché Banca Sella è la principale piattaforma di pagamento per il commercio elettronico italiano e PayPal è invece uno dei principali sistemi al mondo con 73 milioni di conti attivi e un volume di pagamenti gestito nel 2008, pensate, pari a circa il 9% di tutto l'e-commerce a livello globale. E oggi, come abbiamo detto altre volte, 2024, alla parola e-commerce dobbiamo aggiungere anche la parola m-commerce, cioè il commercio in mobilità, grazie alla diffusione dei collegamenti ad internet anche sul telefonino e soprattutto alle applicazioni che arrivano sempre più spesso destinate a particolari tipi di telefonini o legate a certi servizi, beh, è possibile fare acquisti anche online. Amazon è un esempio, ma Trenitalia, di cui abbiamo parlato recentemente con il servizio Pronto Treno, è un altro esempio di e-commerce, quindi di commercio in mobilità. E a proposito di applicazioni, segnaliamo che anche Vodafone sta pensando di lanciare il proprio Application Store per vendere applicazioni destinate agli smartphone. Adesso un altro capitolo della battaglia contro la pirateria digitale online che si gioca anche sul concetto e sull'idea che si ha del collegamento alla rete internet. È o non è un diritto avere internet? Proprio da questa domanda bisogna partire perché il ministro della cultura francese Christine Albanelle sostiene che l'accesso ad internet dal proprio domicilio o comunque in generale non è una libertà fondamentale. Partendo da questo presupposto, il Parlamento francese ha approvato questa settimana in via definitiva una legge che prevede la disconnessione da internet dopo il terzo avviso a chi viene trovato a scaricare file protetti dal diritto d'autore. Quindi banalmente musica, film, videogiochi, eccetera, eccetera. Il controllo verrà effettuato da una nuova autorità, che si chiama Authority per la diffusione delle opere e la protezione dei diritti su internet, il tutto in collaborazione con i provider che dovranno fornire i dati di traffico. Si riceverà un avviso via mail, la prima volta che si viene pescati a fare traffico illegale, e il terzo avviso corrisponderà alla sospensione del collegamento, ma non dell'abbonamento, cioè verrà sospesa la connessione ad internet, ma si dovrà per punizione continuare a pagare l'abbonamento. La Francia diventa così, a partire dall'autunno, uno dei paesi più severi in fatto di protezione del copyright digitale, anche se il Parlamento europeo si è espresso diversamente. Di questo parleremo tra poco, 2024, ripartendo proprio da qua, per cercare di capire quali sono i problemi, le prospettive e i cambiamenti che attendono la Francia nei prossimi mesi. Di nuovo insieme a 2024, seguiteci nel pomeriggio del sabato di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, oppure online sul nostro sito internet anche grazie al servizio podcast. Vi consigliamo di abbonarvi gratuitamente al nostro servizio per scaricare automaticamente la nostra puntata settimana dopo settimana. Tutte le informazioni sono online, oppure potete inviarci una email a 2024, scritto in cifra 2024, @radio24.it. Dicevamo prima che l'utilizzo della rete internet in Italia è ancora limitato, ci sono grosso modo 20 milioni che tutti i mesi navigano in internet, ma potenzialmente circa 35-36 milioni di persone che si possono collegare ad internet, cioè hanno la possibilità, ma non sempre lo fanno. Bisognerebbe crescere, anche perché ci sono dati, l'abbiamo detto più volte, che ci dicono che parallelamente allo sviluppo di una nazione si sviluppa anche internet e viceversa, quindi le due cose sono strettamente collegate. Adesso parliamo di pirateria, come vi dicevo poco fa, partendo da quello che il ministro della cultura francese Christine Albanel ha detto, cioè che internet non è una libertà fondamentale, non è un diritto. Beh, il Parlamento francese ha approvato questa legge che prevede la disconnessione da internet se si viene pescati per tre volte, dopo tre avvisi, a scaricare file protetti dal diritto d'autore in maniera illegale. Il Parlamento europeo non la pensa come la Francia, e dobbiamo dire che anzi ci sono alcuni paesi che si stanno indirizzando verso il modello francese in controtendenza rispetto a quello che dice il Parlamento europeo. Un emendamento approvato il 6 maggio al complesso pacchetto Telecom prevede che il taglio della connessione possa avvenire solo con una decisione della magistratura, così come avviene anche oggi in altri paesi, Italia compresa, mentre la legge francese affida il compito ad un'autorità amministrativa. Questa legge è stata duramente contestata anche online, c'è chi dice che sarà tra l'altro inapplicabile, che costerà moltissimo seguire il traffico per capire chi scarica file illegali, ma ci sono altri aspetti discutibili, come ci spiega l'avvocato Guido Scorza. Direi che il problema, appunto, di metodo è rappresentato dalla circostanza che il legislatore francese, in maniera quantomeno anomala, ha ritenuto, in relazione agli illeciti da violazione di proprietà intellettuale cui si riferisce la legge Adopi appena approvata, di adottare un criterio ed una regola in forza della quale la sanzione precede, anziché seguire come avviene di solito, il giudizio, ovvero intanto si viene disconnessi a seguito dei due avvisi e poi sarà al soggetto destinatario della sanzione eventualmente presentare una opposizione. Si tratta ovviamente di un procedimento sui generis, insomma, basti pensare a guardare alla realtà italiana, dove nel caso di furto, ma in realtà anche nel caso dei delitti più efferati, dall'omicidio alla rapina e ad ogni altro genere di delitto, in realtà non si finisce in prigione, salvo che non sussistano delle esigenze cautelari prima del giudizio, ma si attende che venga celebrato e che arrivi in fondo un cosiddetto giusto processo nel quale l'imputato ha la possibilità di difendersi e poi si irroga la sanzione eventualmente anche attraverso una pena detentiva. Ecco, questa è una tipicità che davvero si fa fatica ad accettare, soprattutto se si tiene presente che alla fine stiamo parlando comunque, non è poco, ma stiamo parlando solo ed esclusivamente della tutela dei diritti patrimoniali dell'industria discografica. Vanno certamente tutelati, però insomma, ecco, c'è da chiedersi perché una così prepotente rottura rispetto alle garanzie tradizionali della difesa debba essere registrata proprio in relazione a questo fenomeno. Cioè, diciamo che viene trattata questa materia un po' come fosse il parcheggio in divieto di sosta: ti do la multa e tu paghi la multa, se non contestualmente, qualche giorno e qualche settimana dopo. Sì, viene trattata alla stessa stregua della sanzione, diciamo, amministrativa, con la differenza sostanziale dal mio punto di vista che in quel caso però il peggio che può capitarmi è che mi si chieda di pagare qualche centinaio di euro. Se poi avrò ragione in fondo al giudizio di opposizione, evidentemente quella somma mi verrà restituita e io non avrò subito nessun danno serio. Qui viceversa mi si dice che nel frattempo, mentre questo giudizio di opposizione, che tra l'altro, se pensiamo alla realtà italiana, non è destinato ad essere esattamente breve e a consumarsi nello spazio di qualche settimana, ma ci vorrà perlomeno un anno e mezzo per celebrare ognuno di questi procedimenti di opposizione, beh, io nel frattempo non posso connettermi a internet e, non potendomi connettere a internet, non posso dialogare con la pubblica amministrazione, non posso accedere alle informazioni, non posso diffondere il mio pensiero in rete. Insomma, ecco, non è poco se si tiene presente che il Parlamento europeo il 6 maggio ha detto chiaramente che quello dell'accesso alla rete è un diritto fondamentale di ogni cittadino europeo e ha detto testualmente che non può essere limitato in nessun caso se non all'esito di un procedimento giurisdizionale, quindi di fronte ad un giudice vero, ad un giudice togato. Ci sono altri, chiamiamoli, problemi che sono stati sollevati, potremmo definirli in questo caso di merito e non di metodo? Sì, direi di sì, nel senso che un primo problema di merito con il quale occorre evidentemente confrontarsi è rappresentato dalla circostanza che stiamo parlando di una condotta che produce all'industria discografica un danno sostanzialmente equivalente a quello che si produce allorquando un cittadino sottragga da uno store multimediale un CD o un DVD fisico. In quel caso però la sanzione è di qualche centinaio di euro ed è una sanzione pecuniaria. Qui viceversa si adotta per una fattispecie analoga una sanzione pesante, a mio avviso sproporzionata, qual è quella della disconnessione ad internet e dunque dell'impossibilità di accedere ad una vasta gamma di servizi e di contenuti. Quindi da un lato una pena pecuniaria oggi prevista nel nostro ordinamento anche per il download di contenuti protetti, e dall'altro lato invece quello che sta accadendo in Francia e che potrebbe accadere anche in Italia è che a parità di condotta vi si ricollega una sanzione tanto grave quanto quella di dire sostanzialmente non telefoni per quello che significa o significherà telefonare nei prossimi anni, cioè non invii un'email, non ti colleghi a un sito internet di informazione, non accedi più alla tua piattaforma di social network attraverso la quale gestisci le tue relazioni personali e professionali. Ecco, non è poco, quindi un problema grosso di merito è rappresentato sicuramente dalla sproporzionalità della sanzione che si chiede di adottare. Altro problema di merito ugualmente importante, sul quale forse ancora troppo poco si è riflettuto, è che a monte dell'avvio del procedimento che secondo la legge francese dovrebbe poi condurre in talune ipotesi alla disconnessione dell'utente, ovviamente vi è una segnalazione da parte del titolare dei diritti, segnalazione attraverso la quale questo soggetto deve dire: il signor Paolo Rossi sta violando i miei diritti, o il sospetto che stia violando i miei diritti perché ha scaricato un contenuto digitale del quale io sono proprietario o in relazione al quale io sono titolare dei diritti d'autore. Ebbene, anche in questo caso ovviamente il dubbio che emerge è come fa il titolare dei diritti d'autore a sapere quali contenuti sono stati scaricati da un certo utente. Se lo sa in maniera puntuale significa evidentemente, diciamolo tra virgolette, che ha spiato l'utente ha spiato il traffico dati di quell'utente e quindi ha avuto così però la possibilità tra l'altro di acquisire in maniera del tutto illegittima, se dovessimo ragionare alla stregua dell'ordinamento italiano, una mole di dati importanti, ad esempio sulle preferenze dell'utente in fatto di gusti musicali o piuttosto cinematografici. Ecco, una cosa di questo genere realizzata così, per come è prospettata nella legge Adobe francese, in Italia probabilmente non sarebbe riproducibile, risulterebbe illegittima sotto il profilo della privacy, perché il garante nel recente caso Peppermint ha avuto già occasione di chiarire che forme di investigazione o schedatura di massa che portino a ricollegare ad un certo indirizzo IP un certo traffico in termini di contenuti devono ritenersi illegittime, al di fuori ovviamente di un procedimento giurisdizionale. Lo si può fare, ma devono farlo le forze dell'ordine sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, così come d'altra parte accade in relazione a tutta l'attività investigativa per qualsiasi altro tipo di reato, dal furto alla rapina o ancora una volta ad un omicidio. Non è che mi faccio giustizia da sola e inizio a fare le ronde, per come si è detto più di una volta, per cercare di assicurare la giustizia al criminale. La materia è estremamente complessa, speriamo sia stata, anzi io penso sia stata riassunta in maniera molto semplice dall'avvocato Guido Scorza. Sicuramente questi sono soltanto alcuni degli appunti che molti esperti fanno a questa possibilità della legge. Il dibattito è molto aperto, molto ampio, tra chi vorrebbe punire molto severamente chi scarica musica illegale, di fatto fa un furto di opere protette dal diritto d'autore ed è giusto che questa gente venga punita, e dall'altra parte ci sono quelli un po' più flessibili che dicono la pena in questo caso è sproporzionata e bisogna rendere il mondo più libero, e anche in questo caso alcune ragioni sono condivisibili. Questa è l'ultima parte di 2024, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Se parliamo di contenuti digitali che hanno sofferto e soffrono anche, non solo, ma anche a causa della pirateria, sicuramente pensiamo alla musica. Allora, per parlare di musica, non solo di pirateria, ma di musica, del mercato digitale, di quanto cresce, di quanto si sta trasformando questo settore, è con noi Enzo Mazza, che è presidente della Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Bentornato a 2024. Buongiorno a tutti. Prima di parlare di pirateria, sicuramente toccheremo e parleremo anche dopo il caso francese di questo tema, però volevo prima capire quanto cresce questo mercato, il mercato della musica digitale in Italia e nel mondo. Ma il mercato è un mercato sicuramente in fortissima espansione, non solo in termini di puro download, quindi la vendita di singoli brani, quello che noi chiamiamo vendita alla card, quindi brano per brano a un costo per singola traccia. Cresce in maniera consistente anche lo streaming, per esempio streaming video, YouTube, tutti i siti di streaming di videoclip musicali, crescono i fenomeni legati al social networking e gli abbonamenti, il download su telefonino, quindi c'è una vasta area di commercio elettronico legato alla musica. Più o meno nella media la crescita è intorno al 30%, anche in Italia il fenomeno sta consolidandosi con dei limiti oggettivi anche strutturali del mercato, comunque lo sviluppo è in atto. Voi avete da poco pubblicato un rapporto sempre molto dettagliato sul fenomeno della musica e del business collegato alla musica nel mondo. Vedo poche volte citata l'Italia. Per quale motivo? Ma l'Italia è sicuramente un paese con grandi prospettive, grandi potenzialità, ma spesso queste potenzialità non vengono consolidate da alcune limiti strutturali che accennavo prima, che sono prevalentemente la scarsa penetrazione a banda larga, che è uno dei primi problemi oggi, poi sulla diffusione dei contenuti digitali è un fenomeno veramente limitativo dell'espansione di questo mercato. Poi sicuramente c'è una scarsa penetrazione ancora dei personal computer nelle famiglie italiane, la musica è un prodotto di intrattenimento e quindi questa scarsa penetrazione coincide con una scarsa penetrazione della diffusione di contenuti digitali. e più in generale poi i problemi anche legati alla cultura dell'acquisto online, quindi sistemi di pagamento, percezione del fatto che comunque questi siti si sono consolidati, che c'è un mercato, scarsa anche iniziativa sul fronte della promozione di questa offerta digitale, sia dalle piattaforme sia in generale un po' anche a livello media. Ho letto che il 95% dei file che circolano in rete sono illegali. C'è, lo sappiamo tutti, una diffusa e scarsa percezione che scaricare musica illegale sia un reato. Comunque, senza utilizzare questa parola, una cosa che non si deve fare. Ecco, di fronte a tutto ciò, dal vostro punto di vista, che naturalmente è uno dei punti di vista in questo dibattito molto complesso, ecco, che cosa è possibile fare? Ma intanto sicuramente l'aumento dell'offerta dalle piattaforme legali e soprattutto tramite anche modelli di commercializzazione di tipo più diverso. Abbiamo oramai, oltre all'acquisto di singole tracce che possono essere acquistate tramite anche abbonamenti o card prepagate, abbiamo anche download gratuito sponsorizzato dalla pubblicità, oppure dei fenomeni ancora più innovativi, dei quali, non so, io acquisto un telefonino e ho preinstallato dei brani musicali, ho l'accesso addirittura illimitato per un anno al download di brani musicali sia su telefonino sia su PC. Quindi, prima di tutto, soprattutto per il consumatore più giovane, c'è un problema anche di determinazione dei sistemi di pagamento più utili per l'utente giovane, che tradizionalmente non è che può accedere a un sito, pagare con carte di credito e comprare un brano, quindi deve avere un accesso facilitato. È abituato a una cultura del gratuito e quindi bisogna trovare il modo di dare una risposta a questo problema attraverso sistemi di pagamento, modelli economici che consentano di fatto di dare la musica quasi gratis o addirittura gratis in cambio di altre forme di pagamento. Penso ad esempio a quello che avviene anche con i video su YouTube. In fondo il video è gratuito, però Google paga gli aventi diritto tramite accordi che ha con le case discografiche, ad esempio. Sì, con la pubblicità poi in definitiva. Di fatto è questo. Dunque, adesso parliamo della pirateria più in generale. Immagino che voi siate soddisfatti e pensiate sia una strada utile da percorrere quella che si è iniziata a percorrere in Francia. Ma la Francia ha un pregio, diciamo, al di là di quello che si possa pensare della norma, se è giusta, non giusta, repressiva, non repressiva, crea problematiche legate all'accesso ai contenuti o addirittura alla possibilità di collegarsi alla rete, quindi c'è un grosso dibattito intorno a quello che è avvenuto in Francia, però ha un pregio la Francia, di aver posto il problema della tutela dei contenuti digitali, cioè il primo paese al mondo che ha normato in qualche maniera in favore della diffusione dei contenuti digitali. Attenzione, questa non è una norma per contrastare soltanto la pirateria, questa è una norma che in qualche maniera favorisce anche lo sviluppo dei contenuti delle piattaforme legali e soprattutto della produzione francese. La Francia è un paese con una fortissima attenzione alla cultura nazionale e ha sempre fatto una forte azione di promozione della propria produzione culturale. Pensiamo all'eccezione culturale, pensiamo alle campagne per la tutela della produzione nazionale. Quindi non è un caso che sia in Francia avvenga questa cosa. E da lì poi, come questa si possa mutuare in altri paesi, questo sta un po' alle scelte strategiche che i singoli stati vorranno fare proprio per favorire la diffusione di contenuti in rete. Se tutti siamo d'accordo che il futuro dei contenuti passerà attraverso le reti digitali, è evidente che dobbiamo porci il problema. A proposito degli altri paesi, la situazione italiana come a livello di dibattito politico, perché il dibattito al di fuori dei palazzi esiste, mi sembra anche piuttosto interessante, approfondito, però mi sembra di capire che quando si discute con il mondo politico di questi temi poco capiscano. Ma sì, il problema di base è che non c'è una cultura sulla diffusione di questi contenuti, in generale non c'è una cultura sulla rete, quindi è difficile affrontare un dibattito che non sia o ideologizzato o da un lato o dall'altro, oppure non sia svolto sul piano tecnico. Quindi è molto difficile far percepire quelle che sono le necessità, per esempio, dell'industria dei contenuti e allo stesso tempo magari la necessità dal punto di vista del consumo di questi contenuti e della diffusione più in generale dell'informazione nella rete. Il dibattito, così come lo vediamo noi in questo momento, è più che altro legato a quale iniziativa intraprendere sul fronte nazionale dopo che è stato istituito questo famoso comitato per la lotta alla pirateria multimediale a livello di presidenza del Consiglio, che dovrebbe trovare delle soluzioni che possono essere simili a quella francese o di alto profilo. Comunque è un comitato che nasce dopo anni di inutili tentativi di portare al tavolo produttori di contenuti, service provider, società di telecomunicazioni, consumatori, per trovare una strada di autoregolamentazione. Io credo che sull'autoregolamentazione ci sia poche speranze di fare dei passi avanti, soprattutto in Italia, dove tendenzialmente non si rispetta già la legge com'è scritta sul codice penale, che poi ci si autoregolamenti è molto molto difficile. Quindi sicuramente qualche strada va identificata. In modo, immagino, provocatorio, la FIMI, in modo particolare tu avevi proposto di dare la connessione ad internet gratuita e spostare il pagamento sui contenuti, cioè internet gratis, invece di pagare l'abbonamento paghi quello che consumi. Per quale motivo? Ma molto spesso il dibattito, anche di recente a Bruxelles, col famoso Telecom Package, come si chiama, l'insieme delle direttive su internet e le telecomunicazioni, spesso il dibattito ruota intorno anche a questo diritto all'accesso, diritto internet come diritto universale ad accedere alle reti digitali, quindi avere accesso anche ai contenuti. Se internet deve essere un servizio universale, può essere anche che lo Stato si faccia carico di dare effettivamente banda larga a ogni cittadino e poi all'interno di questi servizi si possa scegliere tra servizi diciamo completamente gratuiti o servizi a valore aggiunto, un po' così come avviene direttamente con la televisione. Ho una televisione pubblica, dei canali pubblici, dei canali privati a pagamento, dei canali pagati dalla pubblicità piuttosto che degli abbonamenti a consumo. Quindi in realtà si potrebbe spostare il problema tutto in un'altra direzione, quindi accesso reale, gratuito, cioè quindi banda larga per tutti, poi contenuti invece a seconda del livello possono essere a pagamento. Quindi internet come le strade esatto, ci devono essere, devono raggiungere tutti i paesi, devono essere gratuite. Sì, oggi in generale invece è il contrario, cioè si paga molto per le connessioni e poi i contenuti si scaricano abusivamente. Bene, io ringrazio Enzo Mazza per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro, a presto. Arrivederci a tutti, grazie. E così si conclude questa puntata di 2024. Grazie per la vostra attenzione. Vi ricordo che il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, scritto in cifra 2024 e @radio24.it, e che questa puntata sarà disponibile anche sul nostro sito internet www.radio24, anche grazie al servizio podcast. Potete scriverci per tutte le informazioni anche sul servizio podcast. Io ringrazio Luigi Borghi in redazione. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana, sempre nel pomeriggio di Radio 24, tra le 15.30 e le 16.30. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.